niente da fare. Ecco, comincio a crederlo anch'io. Ho resistito a lungo a questo pensiero, mi dicevo, Vladimiro, sii ragionevole, non hai ancora tentato tutto. Riprendevo la lotta. Sicché sei di nuovo qui, tu. Secondo te? E sono contento di vederti, ti pensavo partito per sempre. Anche io. Di nuovo insieme. Che si può fare, eh? Che si può fare per festeggiare questa riunione? Dai, alzati, che tanto... Ma che è tardi, che tardi. E si può sapere dove Vostra Altezza ha passato la notte? In un fosso. In un fosso? Dove? Laggiù. Ma non ti hanno picchiato? Sì, ma non tanto. Saprei gli stessi? Gli stessi? Non lo so. Quando ci penso... Mi domando che fine avresti fatto tu senza di me tutti questi anni. Non saresti altro che un mucchietto d'ossa oggi come oggi, ci giurerei. E con questo? È troppo per un solo uomo! D'altra parte mi dico, che serve scoraggiarsi oggi? Bisognava pensarci secoli fa, verso il 1900. E andrà, aiutami a togliere questa schifezza. Tenendoci per mano, potevamo essere tra i primi a buttarci giù dalla Torre Eiffel. Eravamo presentabili allora. Avrebbero fatto salire, oggi è tardi. Cosa fai? Ti tolgo la scarpa, non ti è mai capitato a te? Quante volte te l'ho detto che bisogna levarsene tutti i giorni, devi darmi retta. Aiutami. Fa male! E fa male! E mi viene a chiedere se fa male! È solo lui a soffrire, no? Gli altri non contano niente! Io vorrei vedere te al posto mio! Allora capiresti cosa significa. Fa male? E fa male. Se fa male. E comunque non è un buon motivo per non abbottonarsi. Giusto. Mai lasciarsi andare nelle piccole cose. Che vuoi che ti dica, tu aspetti sempre l'ultimo momento. L'ultimo momento? Chi vive sperando muore cosando. Chi è più che lo diceva? Allora non vuoi aiutarmi? A volte mi sembra che ci sto arrivando, allora mi sento tutto strano. Sollevato e al tempo stesso sgomentato. Sgomentato! Ma tu qua? Allora? Niente. Fa vedere. Non c'è niente da vedere. Prova a rimetterlo. No, voglio lasciarlo respirare un po'. Ecco l'uomo che se la prende con la scarpa quando la colpa è del piede. La cosa comincia a preoccuparmi. Uno dei due ladroni si salvò. È una percentuale onesta. Coco! Cosa? E se ci pentissimo? Di cosa? Degliali! Non c'è bisogno di scendere nei particolari adesso, no? Di essere madri. Proibito anche il riso. Terribile sacrificio. Si possono sorridere. Non è la stessa cosa, no? Comunque, hai letto la Bibbia? Sì. Te li ricordi? I Vangeli? Ti ricordo le carte geografiche della Terra Santa. A colori. Erano bellissimi. Il Mar Morto era tutto quanto celeste, solo guardarlo mi metteva sete. E pensavo, è lì che voglio passare la mia luna di miele. Noteremo, saremo felici. Un poeta. E perché non si vede che cosa stavo dicendo? Come va il piede? Gonfia a vista d'occhio. Ah sì, quella storia dei ladroni, ti ricordi? No. Voglio che te la racconti? No. Dai, farò passare il tempo. Allora, due ladroni, crocifissi insieme al Salvatore. E dice che... Cosa? Salvatore. Salvatore. Il Salvatore. Dice che uno fu salvato e l'altro... Come si dice? Dannato. Salvato da cosa? Dall'inferno. Io me ne vado. Tuttavia, come si spiega? Mica da noi, vero? Come si spiega che dei quattro evangelisti, uno solo, racconti la storia in questo modo? Eppure erano là tutti e quattro, pure da quelle parti, ma solo uno parla di questo ladrone salvato. Gogo, c'è bisogno che mi rilanci la palla di tanto in tanto. Avremo una cosa davvero estremamente interessante. Uno su quattro. Quanto agli altri tre, due non ne parlano affatto. Il terzo dice che l'hanno insultato tutti e due. Chi? Come? Ma non ci capisco niente. Insultato chi? Il Salvatore. Perché? Perché non ha voluto salvarli. Dall'inferno. Ma no, stupido, dalla morte. Poi evidente dall'inferno. Dalla morte, dalla morte. E allora? E allora saranno stati dannati tutti e due. Ma perché no? Ma uno dei quattro dice che uno dei due fu salvato. Ma vuol dire che non erano d'accordo. Ma erano là tutti e quattro. Ma solo uno parla di questo ladrone salvato, perché credere a lui piuttosto che agli altri? Ma chi lo crede? Tutti, tutti. Chi lo crede? La gente conosce solo questa versione. Ma la gente è troppo cretina. Luogo incantevole. Onorabili denti. Andiamo via! Non si può. Perché? Aspettiamo Godot. Ma già, va bene. Sei sicuro che sia qui? Cosa? Che bisognava aspettarlo. Ha detto davanti all'albero, vedi altri. E albero va? Un salice piangente, direi. E le foglie dove sono? E deve essere morto. Finito di piangere. Oppure non è la stagione giusta. A me sembra piuttosto un cespuglio. È un arbusto. Un cespuglio. È un arbusto. Cosa vorresti insinuare? Siamo nel posto sbagliato. Doveva essere qui. Non ha detto che verrà di sicuro. E se qua non viene? Torneremo domani. Magari dopo domani. Forse. Un altro giorno ancora. Insomma. Finché non verrà. Sei spietato. Io ti dico che ieri noi eravamo qui. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Che cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo fatto ieri? Che cosa abbiamo fatto ieri? Che cosa abbiamo fatto ieri? Che cosa abbiamo fatto ieri? Cosa abbiamo fatto ieri? Sì. Oh, per seminare il dubbio sei un campione! Io ti dico che ieri noi eravamo qui! E tutto questo ti sembra familiare? E allora? E quell'altro? Quella torbiera? Sei sicuro che era stasera? Cosa? Che bisognava aspettarlo. Ha detto sabato. Mi pare. Ma te quale? Preso no. Ma per quale? Perché poi è sabato oggi. Non è sabato. Ma non sarà piuttosto domenica? O lunedì? Come facciamo? O venerdì? O giovedì? Non è possibile. Se ieri si è scomodato per niente, puoi star sicuro che oggi non verrà. Ma tu hai detto che ieri eravamo qui! E potrei anche sbagliarmi! Siamo un po' zitti? Gogo! Ma stavo dormendo. Ma perché non mi lasci mai dormire? Mi sentivo solo. Ho fatto un sogno. Non lo raccontare. Ho sognato. Ma non raccontarlo. Ma sei gentile, Didi. A chi fa che li racconti i miei incubi privati se non a te? Ma è meglio che restino privati, lo sai che non lo sopporto. E le volte mi domando se non faremo meglio a separarci. Non andresti molto lontano. Effettivamente sarebbe un grave inconveniente. Ma non è vero, Didi, che sarebbe un grave inconveniente? Visto la bellezza della via e la bontà dei viandanti. Non è vero, Didi. Non è vero, Didi. Calma! Gli inglesi dicono calma. Loro sono dei tipi calma. Te la ricordi la barzelletta dell'inglese al bordello? Sì. Raccontamela. Piantala. C'è un inglese che ha bevuto un po' troppo che si reca al bordello. La vicemetresse gli domanda cosa preferisce, una bionda, una rossa, una scura. Continua tu. Piantala. Volevi parlarmi, Didi? Avevi qualcosa da dirmi, Didi? Vedi? Avanti, parla. Didi. Non ho niente da dire. Mi sono offeso. Scusa. Dai, arriva. Arriva mamma. Abbracciami. Lasciati andare. Puzzi d'aglio. Sono belle lì. Cosa facciamo? Aspettiamo. E mentre aspettiamo? E se ci impiccassimo? Sarebbe un modo per farselo venire duro. Viene duro? Sì, con tutto quello che segue. Dove cascano? Crescono le mandragole. Infatti quando le strappi... Ah! Urlano! Picchiamoci subito. Ah, bravo? Io non mi fiderei. Ti può sempre provare. Prova tu. Prima tu. No, prima tu. Prima tu. Prima tu. Prima tu. Perché? Perché io peso più di te. Appunto. Non capisco. Usa il cervello. Continua a non capire. Didi, leggero, ramo non si spezza, Didi morto, Gogo, pesante, ramo si spezza, Gogo solo. Ah, a questo non avevo pensato. Se impicca te, impicca chiunque. Scusa, ma poi è vero che io peso più di te? No, c'è una possibilità su due o quattro. Cosa facciamo allora? Non facciamo niente, è più prudente. Sì! Aspettiamo di sentire cosa ci dirà. Chi? Godot! Giusto! Aspettiamo di sapere dove stanno esattamente le cose. D'altra parte forse è meglio battere il ferro fra che carne. Io sono curioso di sapere cosa ci offrirà. Poi sta a noi decidere su prendere o lasciare. Cos'è che le abbiamo poi chiesto esattamente? Scusa, non c'eri anche tu. Ma stava attento. È bello. Niente di particolare. Una specie di preghiera? Ecco! Una vaga supplica? Appunto! E lui cos'è che ha risposto? Che doveva pensarci su. Che non poteva promettere nulla. Che si sarebbe visto. Doveva pensarci a mente riposata. Consultarsi con la famiglia. Con i suoi amici. I suoi agenti. I suoi parenti. I suoi registri. Il suo conto bancario. Prima di denunziarsi. È normale. Vero. A me pare. Anche a me. E noi? Prego. Dico noi? Non capisco. Qual è la nostra parte in tutto questo? La nostra parte... La nostra parte no. È quella del postulante. A queste siamo ridotti? Vostra Eminenza vuol far valere le sue prerogative? Non abbiamo più diritti noi! Mi faresti ridere se solo potessi farlo. Li abbiamo perduti. Li abbiamo buttati via. Ma noi non siamo legali. No, non siamo. Ascolta! Non sento niente. Allora, anch'io. Ma mi hai spaventato! Pensavo fosse lui. Mickey! Godò! Ha dato nelle carni! Sembrava, non credo, ci avrei giurato! E a chi griderebbe? Suo cavallo. Andiamo via? Dove? Magari stasera dormiremo da lui, è caldo. All'asciutto, con la pancia piena. Vale la pena di aspettare, no? Ma mica tutta la notte. Ancora giorno. Ho fame. E vuoi una carota? Non c'è altro? Carote o rape? E niente. Carote, carote. Dammi una carota. Ma una rapa? No, scusa, avrei giurato fosse una carota. Aspetta, che cosa? Devi averla finita tu, perché... Ecco qua, carissimo. Ridammi la rapa. E falla durare perché non ce n'è più. Ti ho fatto una domanda. Ah! Mi hai già risposto? Com'è la carota? Ho una carota. Tanto meglio. Tanto meglio. Cosa volevi sapere? Ho dimenticato. Ma questo che mi fa rabbia? Non dimenticherò mai questa parola, eppure. Aspetta. Allora? Non siamo legati. No, non ho capito una parola. Ti ho chiesto se siamo legati. Legati? Legati. Come? Mani e piedi. Ma a chi? Da chi? Al tuo grand'uomo. Legati a Godò. Legati a Godò. Neanche a pensarlo. Per il momento. Si chiama Godò. Credo. Ma vedi che strano, più si va avanti più fa schifo. Per me è il contrario. Qua? Io mi abituo allo schifo man mano che vado avanti. E sarebbe questo il contrario? È una questione di temperamento. Di carattere. No, Non possiamo farci niente. Hai voglia di aiutarti? No, siamo quelli che siamo. Hai voglia di menarti? A fondo non cambia. Per niente. Vuoi finirla tu? Più spalda! Avanti, forza! Più spalda! Coco! Più spalda! Avanti! Non è brutto. Tu trovi? Un po' effeminato. Fa la schiuma. È per forza. Fa la baba. Forse è un idiota. È un minorato. Guarda gli occhi, guarda gli occhi. Cos'è? No, cos'è? C'è un mezzo fuori dalla testa. Per me è chiaro che sta per crepare. Non è detto. Prova a fargli una domanda. Non a caso. Che cosa rischia? Signore. Più forte. Signore. Ma lasciatelo in pace. Ma non vedete che si vuole riposare? Paniere! Paniere! Che volete farci? Non è il suo mestiere. Oh, così va meglio. Scusi, signore, non è che... sembra, uomo. Scusi, signore, non è che per caso avete bisogno ancora di questi ossi? Ma non potevi aspettare. Ma no, no, no, no, più che giusto. Non se ho bisogno degli ossi. No, personalmente non ne ho più bisogno. Ma! In teoria gli ossi spettano al facchino. È a lui che bisogna chiedere. Ma gli chieda pure, non abbia paura, glielo dirà. Scusi, signore. Dice a te, porco, rispondi! Scusi, signore, non è che per caso avrebbe ancora bisogno di questi ossi. Signore! Rispondi che vogliono poi quegli ossi! Le prenda pure. È strano, però. È la prima volta che mi rifiutano un osso. Voglio sperare che non mi faccia lo scherzo di ammalarsi. È una vergogna! Lei vuole forse alludere a qualcosa? In... Sì, sì, un essere umano. Trattare in questo modo un essere umano è una vergogna. È uno scandalo. Siete severi. Ora vi devo lasciare. Grazie per avermi tenuto compagnia. A meno che non resti a farmi un'altra pipata con voi, che ne direste? Non che io sia un gran fumatore, sono un fumatore da niente. Non è nelle mie abitudini fumare due pipe, una dietro l'altra. Mi dà le palpitazioni. È la nicotina. Malgrado tutte le precauzioni si finisce per assorbirne lo stesso. Sapete com'è? Forse voi non siete fumatori. Sì? No? Non ha importanza? Come faccio a sedermi con naturalezza ora che mi sono alzato senza dare l'impressione di, come dire, vacillare? Diceva? Forse lei non diceva niente. Non ha importanza. Insomma, vada meglio. Andiamo via. Un momento! Senti, mio! Eccomi di nuovo sistemato. Andiamo via. Spero di non essere io a farvi partire. Restate ancora un po', non ve ne pentirete. Io me ne vado. Lei non può più sopportare la mia presenza. Io non sarò forse particolarmente umano, ma vi sembra una buona ragione? Ci pensi due volte prima di commettere un'imprudenza. Facciamo l'ipotesi che voi partiate adesso, mentre fa ancora giorno. Perché non si può negare che fa ancora giorno. Bene. Dove va a finire in questo caso? Si aspetta. In questo caso, dove va a finire il vostro appuntamento con quel Godet? Lì? Insomma, capite chi voglio dire? Colui che tiene il vostro futuro nelle sue mani, o meglio, il vostro futuro immediato. Ha ragione. Ma a lei chi gliel'ha detto? Finalmente si è deciso a rivolgere di nuovo la parola. Finiremo con diventare vecchi amici noi due. Perché non potete pagare? Anche io sarei felice di incontrarlo. Più gente conosco, più io sono felice. Anche con la creatura più meschina ci si istruisce, ci si arricchisce. Si apprezza di più la propria fortuna. Perfino voi due. Sì, perfino voi due. Chissà che non mi abbiate regalato qualcosa. Perché non potete pagare? Anche se mi stupirebbe. Le hanno fatto una domanda. Una domanda? Che quale domanda? Poco fa mi chiamavate signore tremando e adesso mi fate delle domande, qua va a finire il male. Ecco, ora ti ascolta. Guarda, fagli la domanda. Cosa dovrei chiedergli? Perché non posa i bagagli? Ma la domanda anche io. No, ma lui mi chiede... Voi mi chiedete perché non posa i suoi bagagli, come dite lui? Appunto. E vengo anche lei, signore. Occhio come una foca. Bene, ora ve lo dirò. Ma stia fermo un momento, lei mi rende... Stanno a parlare. Bene, allora... Ci sono tutti? Tutti mi guardano? Guardami anche tu, porco! Bene! Allora! Mi ascoltate tutti? E più vicino! No. Siete tutti pronti! Ehi tu, porco! Non mi piace parlare al letto. Bene. Dunque. Io me ne vado. E cosa volete sapere esattamente? Perché non posso... Interrompa lei. Se parliamo tutti insieme non la finiremo mai. Stavo dicendo. Che stavo dicendo? Bagagli. Perché? Sempre tenere. E mai, mai posare... Ci sono! Prima. Allora perché non si mette comodo? Allora cerchiamo di vederci chiaro. Forse che non ne ha il diritto? Si piacerà! Ne consegue che è lui che non vuole. Questo si chiama ragionare. E perché lui non vuole? Signori, ora ve lo dirò io. Prendi nota. Lo fa per impressionarmi, perché io continui a tenerlo al mio servizio. Come? Forse non mi sono espresso bene. Cerca di impietosirmi, perché io rinunzi a separarmi da lui. No, no, no, le cose non sono nemmeno così a essere precisi. Lei vuole sbarazzarsi di lui? Vorrebbe fregarmi. Ma non me la farà. Lei vuole sbarazzarsi di lui? Si è messo in testa che vedendolo così volenteroso io sarò tentato di utilizzarlo ancora come facchino. Ma lei non lo vuole più. In realtà come facchino fa schifo. Non è il suo mestiere. Lei vuole sbarazzarsi di lui? Lui pensa che vedendolo infaticabile io ripentirò della mia decisione. Questo è il suo miserabile capo. Come se mi mancassero gli schiavi. Andante, figlio di Giove! Bene, credo di aver risposto a questa domanda. Se ne avete altre, fate comunque. Lei vuole sbarazzarsi? E notate che potrei benissimo trovarmi io al suo posto. E lui al mio. Se il destino non avesse deciso altrimenti, a ciascuno il suo. Lei vuole sbarazzarsi di lui? Ha detto? Lei vuole sbarazzarsi di lui? Già. Ma invece di scacciarlo come avrei potuto. Che voglio dire, invece di buttarlo fuori a cacci nel sedere, lo sto conducendo per pura bontà d'animo al mercato di San Salvatore, dove conto di ricavarne qualcosa. In realtà scacciare creature come queste è impossibile. Per fare per bene le cose bisognerebbe ammazzarle. Sta piangendo. I vecchi cani hanno più dignità. Vada a consolarlo, visto che le fa pena. Tenga, gli asciughi gli occhi, si sentirà meno abbandonato. Lascia fare la mano. Sì, ma sbrigatevi, se no smette di piangere. Fazzoletto! Il bastardo! Ma c'è un po'! Ve l'avevo detto che non amo gli estranei. Fa vedere! Sanguina! È buon segno! Ma ti porterò io! Nel caso ti non piange più. In un certo senso l'ha sostituito lei. Le lacrime del mondo sono una quantità costante. Non appena uno si mette a piangere, un altro da qualche altra parte smette. E così per il riso. Non parliamo perciò troppo male della nostra epoca. Non è più infelice di quelle precedenti. troppo bene. Non parliamone affatto. È vero però che la popolazione è aumentata. Prova a camminare. E volete sapere chi mi ha insegnato tutte queste cose? Lui. Non verrà mai la notte. Senza di lui io non avrei mai potuto pensare, mai sentito altro che cose volgari relative al mio mestiere di... Non ha importanza. La bellezza, la grazia, la verità di prima classe erano tutte cose a cui sapevo di non poter aspirare. Per questo ho preso uno knuck. Uno knuck. Cappello! Che cos'è uno knuck? Voi non siete di qui, ma siete almeno di questo mondo. Una volta c'erano i buffoni, adesso si tengono degli knuck. Chi se ne può permettere? E lei lo vuole scacciare? Un servitore così buono, così fedele. Che porco! Dopo averne succhiato tutto il buono, lei lo vuole gettare via come una buccia di banana. Deve ammettere. Non posso più. Non posso più sopportare. Tutta questa cosa fa. È spaventoso. Ma non potete immaginare. Mi fa impazzire. Se ne deve andare. Non so più. Non può più. È spaventoso. Lo fa impazzire. È disgustoso. Non ti vergogni? Un padrone così buono tutti questi anni è una cosa indegna. Una volta era gentile con me. Mi aiutava. Mi distraeva. Mi rendeva migliore. Adesso mi sta... Lo vuole sostituire oppure non ne vuole più nessun altro, né nessuno dopo di lui. Non credo. Com'è? Non lo so. È domanda di che. Signore, non so cosa mi sia successo. Vi porgo le mie scuse. Vi prego di dimenticare l'accaduto. Non ricordo più molto bene ciò che ho detto, ma vi posso assicurare che non una sola parola corrispondeva alla verità. Se non fosse uno che si può far soffrire! Ma non scherziamo! Dove è finita la mia pipa? Bella serata, dimenticata. Era cominciata, non è finita. Sembra di stare al teatro, al varietà. Dove ho messo la mia radica. Che fenomeno, ha perso la sua ciminiera. Torna subito. E volta a sinistra. Tienimi il posto. Ho perso la mia autulla. Da che fare? Non l'avete visto? Ma chi se n'è andato? Cioè, così, senza neanche salutarmi. Non è per niente carino, avrebbe dovuto trattenere. Si è trattenuto già abbastanza, ora, dal caso. Venga a vedere. Dovrei alzarmi? Dai, che si alzi. Andate. Guardi un po' lì. Ecco, finito. Perché ti prego? Partire prima? Naturale, naturale. Del resto anch'io al vostro posto se avessi appuntamento con quel Godin. Godin, insomma capite che voglio dire. Aspettare che fosse notte fonda prima di lasciar perdere. Tra tornerei volentieri a sedermi, ma non so bene come affrontare la cosa. Posso essere d'aiuto? Se lei me lo chiedesse di nuovo. Come? Se lei mi chiedesse di sedermi di nuovo. E questo servirebbe? Penso di sì. Allora forza, signore, si vada a sedere, la prego. Ma no, ma no, ma non è il caso. Insista un po'. La prego, signore, avanti, si vada a sedere, forza, prenderà freddo. Lei crede? C'è il minimo dubbio. Forse lei ha ragione. Eccomi di nuovo, sistemato. Ma è ormai tempo che io vi lasci, se non voglio fare tardi. Tempo si è fermato. Questo non deve credere, mio caro signore. Questo non deve credere tutto quello che vuole, ma questo no. Oggi vede tutto nero. Salvo il firmamento. Abbiate pazienza, non tarderà. Ma capisco benissimo, voi non siete qui. Voi non sapete ancora cos'è il crepuscolo qui da noi. Volete che ve lo dica io? Sono lieto di accontentarvi. Un po' di attenzione, prego. Che cos'ha questa frusta? Cos'è che dicevo? Ah sì, la notte. Guardate. Ti dico di guardare il cielo, porco! Bene, basta. Così. Che cos'ha di tanto straordinario? Come cielo, voglio dire. È pallido e luminoso come qualsiasi altro cielo a quest'ora del giorno. A queste latitudini. Ma non fa bene. Un'ora fa. Circa. Dopo averci inondato. Fin dalle 10 del mattino, senza requie di torrenti di luce rossa e bianca, ha cominciato a perdere il suo fulgore, a impallidire, sempre di più, sempre un po' di più, fin tanto che... finito, non si muove più. Ma dietro quel velo di dolcezza e di calma, la notte galoppa e si getterà su di noi. Così, nel momento in cui meno ce lo aspettiamo. Ecco come vanno le cose su questa sporca terra. Dal momento che siamo avvisati, si può pazientare, non conosciamo la situazione. Non c'è da preoccuparsi. Non resta che aspettare qui. Noi siamo abituati. Come mi avete trovato? Bravo. Discreto. Passabile. Mediocre. Decisamente cattivo. Ottimo. Grazie, dai. Grazie. Ho tanto bisogno di incoraggiamento. Che sono un po' calato verso la fine. Solo un pochino. Io credo che lo facesse apposta. No, che è la memoria, non è più quella. Ecco perché. E intanto che aspettiamo non succede niente. Lei si annoia. È piuttosto. Lei non c'è da stare allegri. Signori, siete stati educati con me. Ma si figuri. Ma si immagini. Ma no, siete stati molto gentili. Al punto che mi domando cosa posso fare io per questa povera gente che si annoia. 10 monetine sarebbero... Ma non ci siamo dedicati. Che potrei fare? Cioè, questo che vi dico. Per aiutarli a far passare il tempo. Gli ho dato degli ossi. Gli ho parlato di questo, di questo. Gli ho spiegato il crepuscolo. E tutto questo va bene, per non dire altro. Ma può bastare, è questo che mi angustia, può bastare. Anche solo 5. Fai, può bastare. Probabilmente sì. Ma io sono generoso. È la mia natura. Oggi. Tanto peggio per me. Perché mi farà soffrire. Questo è certo. Allora, cosa preferite? Che balli? Che canti, che reciti, che pensi, che... Chi? Voi? Sapete pensare, voi altri. Lui pensa. A naturale. Ad alta voce. E vi dirò, una volta pensava anche molto carinamente. Potevo stare ad ascoltarlo per delle ore. Adesso, tanto peggio. Allora, volete che ci pensi qualcosa? Io preferirei che parlasse, sarebbe più allegro. Non necessariamente. Non credi, dimmi che sarebbe più allegro. Potremmo sentire volentieri pensare. Però potremmo prima parlare e poi pensare. Se non è chiedergli troppo. Si potrebbe. Ma certo, niente di più facile. Del resto l'ordine è naturale. E allora vado per il ballo. Hai sentito? Balla! Pidocchio! Tutto qui. Bis! Bella roba. Ti riuscirei anche io, dico. Magari con un po' più di allenamento. Questa! Una volta parlava la Ferrando, la Carmagnola, la Gina, il Fandango, perfino a Hortwine. Saltava alto così. Adesso non fa che questo. Sapete come lo chiama? La morte dell'ampionaio. Il cancro dei vegliardi. La danza della rete. Crede di essere impigliato in una rete. C'è qualcosa di vero? Gli dica di pensare. Dategli il suo cappello. Il cappello? Sì, non può pensare senza cappello. Dagli il suo cappello. Io, dopo quello che mi ha fatto, ma non ci penso nemmeno. Glielo darò io allora il cappello. Bisogna metterglielo. Gli dica di prenderlo. È meglio metterglielo. Allora glielo metterò. Beh, state lontani. Pensa, porco! Avanti! Delle ricerche incompiute e tuttavia premiate dalla Accademia di Antropometria di Baden-Press e di Destuiconal. Rimane stabilito senz'altro la possibilità di errore, che è quella pertinente a ogni calcolo umano, che a seguito delle ricerche interrotte di Destuiconal rimane stabilito lito quanto segue segue. Nella fattispecie non anticipiamo, non si sa perché, a seguito dei lavori di Watson e Watman, risulta altrettanto chiaramente, tanto chiaramente, che secondo i tentativi di non conclusi, non si sa perché, inconclusi, che l'uomo, potrei mettere l'opinione contraria, che l'uomo, l'uomo, malgrado il progresso dell'alimentazione e dell'eliminazione dei residui, va via, dimagrendo, e lo stesso cavalcamento, non si sa perché, malgrado l'incremento della cultura fisica e degli sport, quali il tennis, il calcio, la corsa a piedi in bicicletta, il nuoto, l'equitazione, l'aviazione, l'incolazione, il tennis, il pattinaggio, su ghiaccio e su asfalto, il tennis, gli sport invernali, estivi, autunnali, il tennis, su erba, su legno, su terra battuta, il tennis, l'aviazione, l'occhio su terra, nei mari, nei cieli, la penicillina e su cedani, insomma, tornando da capo, al tempo stesso parallelamente, non si sa perché, va via, restringendosi, rimpicciolendo, malgrado il tennis, tornando da capo, l'aviazione, il golf, sia 9 che 18 buche, il tennis, non si sa perché, insomma, il calo per testa di lava dalla voce di Volteri, poi essendo di 100 grammi per testa di lava, cita in media presso poco, cifra tondo, buon peso, spogliatonuto in Normandia, insomma, poco in testa parlano, e considerando inoltre tante. Grazie a lei. Invece di che? Ma sì. Ma no. Ma sì. Ma no. È che non riesco a partire. La vita. Ma dalla parte sbagliata, ho bisogno di una certa rincorsa. Avanti! Avanti! Avanti! Siano gli stessi. Tant'è vero che non ci hanno riconosciuti. Questo non vuol dire niente, che io ho fatto finta di non riconoscerli. Ma non ci riconoscono mai. Ma basta! Da qui ci vuole un... Qui ci vuole un... Qui nell'altro piede! A meno che non siano gli stessi. Signore! Ah, eccoci, li siamo. Vieni avanti, ragazzo mio! Che cosa vuoi? Vieni avanti, ti dico! Che c'è? È il signor Godot! Naturalmente, vieni qua! Vieni qua, ti dico! Perché arrivi così tardi? Hai un messaggio del signor Godot? Sì, signore! Parla allora! Perché arrivi così tardi? Ma lasciami in pace! Lasciami perdere tu! Lo sai chi ne sono? Non è colpa mia, signore! Allora sarà colpa mia! Avevo paura, signore! Hai paura? Paura di chi? Di noi? Rispondi! Ho capito, saranno quegli altri due che devono avergli fatto paura. Da quanto tempo sei arrivato? Da un bel po', signore. Hai avuto paura della frusta? Sì, signore. Ah, di quei due signori? Sì, signore. Delle urla? Sì, signore. Ma quei due li conosci? No, signore. Ma sei di queste parti? Sì, signore. Sono tutte bugie. Dici la verità! Ma è la verità, signore! Lascialo in pace, cosa ti prende? Cosa ti prende? Sono infelice. Prendi. Da quando? Me ne ero dimenticato. Che si fa la memoria. Allora? Il signor Godot. Ma scusa, mi sembra di conoscerti se non sbaglio. Non mi conosci? Che posso? Non sei già venuto ieri? No, signore. È la prima volta che vieni. Sì, signore. Continua. Il signor Godot mi ha detto di dirvi che questa sera non verrà, ma di sicuro domani. Sì, signore. Ma tu lavori per il signor Godot? Sì, signore. Cosa fai? Ti guardo le capre, signore. È buono con te? Sì, signore. Non ti picchia? No, signore, a me non mi picchia. E chi è che picchia? Picchia mio fratello. Cosa fa? Guarda le pecore, signore. Perché a te non ti picchia? Non lo so, signore. Ti deve voler bene. Sì. Ti fa mangiare bene, ti fa mangiare abbastanza. Abbastanza bene, signore. Non sei infelice. Mi hai sentito? Sì, signore. Allora? Non lo so, signore. Non sai se sei infelice o no? No, signore. Ma neanche io. Ma dove dormi? Nel granaio, signore. Con tuo fratello? Sì, signore. Sulla paglia? Sì, signore. Vabbè, vai, va. Adesso? Sì. Che devo dire al signor Godot, signore? Digli che ci hai visti. Sei sicuro di averci visti, vero? Sì, signore. Ma... cosa fai? Quello che fai tu. Guarda il faccione. No, voglio dire con le scarpe. Ah, no, no, le lascio qua. Qualcun altro verrà. Qualcuno, non meno di me, ma con una misura più piccola, e le mie scarpe lo faranno felice. Ma non puoi mica andare in giro scalzo. Perché? Gesù l'ha fatto. Gesù? Cosa vai a tirar fuori? Non vorrei mica paragonarti a lui. Mi sono paragonato a lui tutta la vita. Laggiù dove stava lui? Faceva caldo, faceva bello. Sì, e facevano presto a metterti in croce. Non c'è più niente da fare qui. Né qui né altrove. No, al luogo non fare così. Domani andrà meglio. E come? Hai sentito cosa ha detto il ragazzo? No. Ha detto che Godò verrà di sicuro domani. Allora non resta che aspettare. Ma sei impazzito, bisogna mettersi al riparo, vieni! Dai! Peccato che non abbiamo una corda! Sì, dai che comincia a far freddo! Ma ricordati di portare una buona corda domani! Vieni! Ti ho sentito! È vero, me ne ricordo! Mi ha fatto dispiacere! Ho pensato, è rimasto solo, mi crede partito per sempre, pure canta. E all'umore non si comanda. È tutto il giorno che mi sento in gran forma. Non ho dovuto alzarmi neanche una volta stanotte. Vedi, perfino a pisciare te la capi meglio quando io non ci sono. Sentivo la tua mancanza, ma nello stesso tempo ero contento. È strano, no? Contento. Forse non è la parola giusta. E adesso? E adesso rieccoci qua! Rieccoci qua! Rieccomi qua. Vedi, da subito peggio quando ci sono anche io. Neanche io mi sento meglio da subito. E allora perché sei tornato? Non lo so. E io lo so, perché non sai difenderti. Io non ti avrei lasciato picchiare. Non avresti potuto impedirlo. Perché? Erano indietro. No, avrei impedito di farti mettere nelle condizioni di farti picchiare. Ma se non facevo niente! E allora perché ti hanno picchiato? Non lo so. Ci sono delle cose che a te sfuggono e che a me non sfuggono. Te ne sarai accorto anche tu. Ma se ti dico che non facevo niente! Esatto! Là. Non parliamo di te, eh? Sei tornato, io ne sono contentissimo. Eravamo in 10. Sarai contento anche tu, di la verità. Contento? Di avermi ritrovato. Ma tu credi? Dillo, anche se non è vero. Cos'è che dovrei dire? Sì, sono contento. Sono contento. Ah, anch'io. Siamo contenti. Siamo contenti. Che facciamo adesso che siamo contenti? Aspettiamo tu! Ma già, è vero. Qualcosa è cambiato qui da ieri. E se non venisse? Vedremo di tapparsi, ma ti dico che qualcosa è cambiato! Tutto trasuda. Guarda l'albero, per esempio. Non ci si bagna mai due volte nello stesso fusto. L'albero, ti dico, guardalo! Ieri non c'era. Ma sì che c'era, non te lo ricordi? Ci è mancato un pelo che non ci si impiccasse. Che non ci si impiccasse, giusto? Ma tu non hai voluto. Non te lo ricordi. Lo sei sognato. Hai dimenticato tutto. Mi sono fatto così. Lo dimentico subito, non dimentico mai. Il pozzo è là. E che pozzo è là? Hai dimenticato tutto. Mi ricordo di un energume. Che tirava calcio e poi si è messo a farlo scemo. Era lì. Questo me lo ricordo. Ma quando è successo? L'altro che lo tirava. Ti ricordi anche di lui? Mi ha dato degli ossi. Era pozzo! E dici che è successo ieri tutto questo? Ma si capisce! In questo stesso posto. Ma certo, non ti ritrovi! Ritrovati. È quel che mi ritrovi! Ho trascinato la mia fregatura di vita attraverso il deserto e tu vuoi che io ci veda delle sfumature! Oh. Guarda! Guarda questo schifo! Io non ne sono mai uscito! Calma! E allora non venirmi a rompere le scatole con i tuoi paesaggi! Parlami del sottosuolo! E vorresti dirmi che tutta questa roba adesso assomiglia a... Bravo Clus! Bravo Clus, ma come hai parlato di Clus? Ci sei costato tu nel Clus? Io non ci sono mai stato nel Clus, io questa diarrea di esistenza me la sono scolata tutta qui, ti dico qui, nel merda! E io ti ripeto che io e te siamo stati insieme nel Clus, abbiamo perfino vendemmiato da un certo bone lì, a Rosillon! Ma sarà, ma io non l'ho notato io. Ma era tutto rosso! E io ti dico che non ho notato niente! È difficile vivere con te, Bobo. Sarebbe meglio separarsi. Dici sempre così ogni volta ritorni. A voler fare le cose per bene bisognerebbe ammazzarmi. Come quell'altro? Quale altro? Come milioni di altri. Ma ciascuno la sua piccola croce. Durante il piccolo, durante il breve dopo. E comunque, mentre aspettiamo, cerchiamo di conversare senza esaltarci, visto che siamo incapaci di stare zitti. È vero, siamo inesauribili. Lo facciamo per non pensare. Abbiamo delle attenuanti. Lo facciamo per non sentire. Abbiamo le nostre ragioni. Tutte le voci morte. Che fanno un rumore d'ali. Di foglie. Di sabbia. Di foglie. Parlano tutte nello stesso tempo. Ciascuna per conto proprio. Direi piuttosto che bisbigliano. Che mormorano. Che sussurrano. Che mormorano. Che cosa dicono? Parlano della loro vita. Non si accontentano di aver vissuto. Bisogna pure che ne parli. Non si accontentano di essere morte. Non basta. Fanno un rumore come di piume. Di foglie. Di ceneri. Di foglie. Di qualcosa. Sto cercando. Di qualsiasi cosa. Cosa facciamo adesso? Aspettiamo Godot. Ah già, è vero. È difficile però. Prova a cantare. No, non c'è che da ricominciare. È giusto, però non è una cosa per tanto difficile. No, è difficile solo la partenza. Ma si fa partire da qualsiasi cosa. Bisogna decidersi, giusto? Ah, giusto, giusto. Aiutami, sto cercando. Quando si cerca, si sente. È vero. Così non si riesce a trovare. Appunto. Non si riesce a pensare. Si pensa lo stesso. Ma non è impossibile. Ecco, contraddiciamoci. Impossibile. Tu dici? Sì, noi non corriamo più il rischio di pensare. E allora di che ce ne lamentiamo? Ci sono rischi peggiori che pensare. Verissimo, ma è pur sempre qualcosa. Come sarebbe dire pur sempre qualcosa? Ecco, facciamoci delle domande. Cosa vuol dire pur sempre qualcosa? Pur sempre qualcosa di me. Ma chiaro. E allora se ci considerassimo felici? Incredibile. È di aver pensato. Ma abbiamo mai pensato, davvero? Di dove vengono tutti questi cadaveri? Queste ossa. Ecco. È chiaro? Un pochino dobbiamo aver pensato. Ma proprio all'inizio? Un carnaio, un vero carnaio. Basta non guardarlo. Ma tiralo. È vero. Al nostro dispetto. Come? Al nostro dispetto! Bisognerebbe volgersi risolutamente verso la natura. Abbiamo tentato. È vero. Oh, c'è di peggio, naturalmente. Peggio di che? Di aver pensato. Già. Noi l'avremmo fatto volentieri a meno. Ma che vuoi farci? Lo so. Non è da voi tanto male come piccolo troppo. No. Bisogna trovare qualcos'altro adesso. Vediamo. Cosa dici? Si potrebbe ripartire di là. Di là dove? Proprio dall'inizio. Dall'inizio di che? Stasera, dicevo. No, ma adesso che bello. Ci siamo abbracciati. Cosa facciamo adesso che siamo contenti? Si aspetta. Ci sono quasi. Si aspetta. E... Ah! L'albero! L'albero? Ti ricordi? Sono stanco. Guarda! Non ha niente di speciale. Ma ieri era nero e scheletrico. Questa sera è ricoperto di foglie. Di foglie? In una sola notte. Ma sarà arrivata la primavera. Ma in una sola notte! Senti, noi ieri non eravamo qui, un altro tempo lì. Non eravamo, dove eravamo ieri sera secondo te? Non lo so, da un'altra parte, in un altro scompartimento, non è il vuoto. D'accordo, non eravamo qui, ora dimmi cosa abbiamo fatto noi ieri sera. Abbiamo chiacchierato. Ecco, a proposito di cosa... È stato un po' del più del meno. Adesso mi ricordo, abbiamo chiacchierato del più del meno, mezzo secolo che non facciamo altro. E non ti ricordi nessun fatto, nessuna circostanza. Ma mi tormentare. Il sole, la luna. Saranno stati come sempre. Non hai notato nulla di insolito. Zero. Pozzo, lachi, Pozzo. Gossi. Sembravano rischi. Ah, è il pozzo che te li ha dato. Non so. E la pedata? La pedata, sì, no, mi pare che abbia preso le carte. È la che te l'ha data, Ma dici che è successo ieri? Fammi vedere le gambe. Quale? Tutte e due. Tira sui pantaloni. Vai. Forza! E non posso! Ma l'altra! Ecco! Lo vedi qua? La piaga che si va infettando! Con questo? E tu hai lasciato le scarpe! Ho gettato via. Quando? Non lo so. Perché? Non mi ricordo. Voglio dire, perché le hai gettate via? Perché mi facevano male. Ecco, guardale là, dove le hai lasciate benissimo. Qua. Non sono le mie. Non sono le tue? No, le mie erano nere, queste sono gialle. Sei sicuro che le tue erano nere? Insomma, erano grigie. E queste sono gialle, fa vedere? E queste sono tutte quante le... Fa vedere! Vedi, se tu le prendi qua, le rigiri... Ma è impossibile! E poi le rigiri ancora. Ho capito cos'è successo, ho capito! Ma non è sia pure per darci... Sì, è facile come la bici. È passato qualcuno, ha preso le tue scarpe e ti ha lasciato le sue. Perché? Perché le sue non mi andavano bene. Ma le mie erano troppo strette. Per te, non per lui. Basta, sono stanco. Andiamo via. Non si può. Perché? Aspettiamo che tu... Ah, già. Okay. Allora che si fa? Non c'è niente da fare. Ma io non ne posso più! Lo vuoi un ravanello? Ma piano? Ravanelli o rape? E niente carote? No, poi tu non devi esagerare con le carote. Dammi un ravanello. Ma è nero. È un ravanello. Lo sa benissimo che mi piacciono solo quelli rosa. E allora non lo vuoi? Mi piacciono solamente quelli rosa! E allora ridammelo! Vado a cercare una carota. Sta cominciando a diventare tutto senza senso. È ancora troppo. E se li provassi? Già provato. No, voglio dire, le scarpe. Sarebbe un modo per passare il tempo e sarebbe una diversione. Una distensione! Una distrazione! Distensione! Fatta! Yeah. E tu mi aiuti? Ma si capisce? Non ce la chiediamo mica troppo male, io ti dico. Fatta! Dai, cominciamo con la sinistra. Troviamo sempre il modo per darci l'impressione di esistere. Sì, sì, siamo dei mali. Ma non lasciamoci distogliere dalle nostre risoluzioni. No, è l'altra. È l'altra, porco! Più in alto, porco! Prova a camminare. Come va? Sembra che va. Adesso li allacciamo. Niente lacci! Niente lacci. Scusa, un errore. Proviamo l'altro, dai. Allora? Anche questa. Non ti fanno male? No, non ancora. Allora le puoi tenere? Sono troppo grandi. E un giorno forse avrai dei calzini. Abbiamo ora di parlare di scarpe. Ho detto pianta, amico. Potrei anche sedermi. Ieri sera eri seduto lì. Se solo potessi dormire. Ieri sera è lì. Ora ci provo? Aspetta. Nanina. Così forte. Tieni. No. Non so. Voglio dire, come mi trovi? Corretto. Ma non più del solito. Fare qua. Allora posso dire. Perché io mi faccio male, mi crudela. Io me ne vado. Non voglio giocare. Giocare a che cosa? Potremmo giocare a Pozzo e Lachi! Ma io conosco. Dai, io faccio Lachi e tu fai Pozzo, forza! Che cosa devo fare? Insultami! Ti fordo. Da più forte! Puzzone! Calogna! Dimmi di pensare! Come? Di pensa, maiale! Pensa, maiale! Non ci riesco. Vado. No, dimmi di ballare. Io me ne vado. Balla, porco! Non ci riesco! Go! Go, go! Go! Ecco tu! che la serata è assicurata. Aiuto! Oh, aiuto! Non siamo più soli ad aspettare la notte, ad aspettare Godot, ad aspettare! Oh, scusa, ma che è tutta la sera che lottiamo da soli! Non già domani! Ma sono solo di passato! Aiuto! Già si sente che il tempo scorre in altro modo. Il sole tramonterà, la luna sorgerà e noi ce ne andremo di qua. Ma non si fermeranno nemmeno. Ma non basta. Pierpa? Ma porco, sì. Lo sapevo che era lui. Chi? Godot. Ma non è mica Godot. Non è Godot. Allora chi? È Pozzo. Sono io, tiratemi su. Vuole tirarsi su? Andiamo via. Ma non si può. Perché? Aspettiamo Godot. Andiamo. Questo ha ancora degli ossi da dare. Gli ossi? Sì, di pollo, non te lo ricordi? Era lui? Sì! Ma domandami! Ma se prima gli dessimo una mano? A che scopo? Vuole alzarsi? Non mi lascia alzarsi? Vuole tirarsi su? E lascia che si tiri su? Non può! E che cosa? Non lo so! Ma se per prima cosa noi gli chiedessimo gli ossi e poi se qui ci dice di no, noi lo lasciamo dove? Ah, vuoi dire che ce l'avremo in pugno? Sì. Chiedere qualcosa in cambio dei nostri servizi. Sì. Mi sembra un'idea intelligente. Solo una cosa mi preoccupa, che l'aria ci salti addosso all'improvviso. L'aria? Sì, quello che ti ha picchiato ieri. Ma ti dico che erano in 10. Ma no, prima, quello che ti ha dato i calci. Anche lui. Adesso non si muove, però tutto un tratto si scatena quello. E se noi provassimo a dargli una buona lezione, noi due insieme? Ah. No, direi, approfittiamo del fatto che Pozzo ha bisogno di aiuto. Aiutiamolo puntando sulla sua gratitudine. Ma non chiede più. Ma non perdiamo tanto in chiacchiere vane, facciamo qualcosa quando l'occasione si presenta. Non succede tutti i giorni che qualcuno abbia bisogno di noi, no? Non che precisamente abbia bisogno di noi, che qui altro andrebbe bene. La sua invocazione era rivolta all'intera umanità qui. In questo posto l'umanità siamo noi. Approfittiamone prima che sia troppo tardi. Rappresentiamo degnamente quella sporca razza in cui ci ha cacciati la sfortuna. Che ne dici? Che ne dici? È pur vero d'altra parte che soppesando il pro e il contro, a braccia incrociate, facciamo comunque onore alla nostra condizione, no? La tigre si precipita in aiuto dei suoi congeneri senza la minima riflessione, oppure scappa nel fondo della foresta. Non è questo il punto. Cosa ci facciamo qui? Ecco cosa dobbiamo chiederci. Che noi abbiamo la fortuna di sapere. In questa immensa confusione una sola cosa è chiara, no? Noi aspettiamo che venga Godot. È vero. O che cada la notte. Siamo venuti all'appuntamento, punto e basta, non siamo santi, ma siamo venuti all'appuntamento. Quanti altri potrebbero dire altrettanto? Nelle masse. Dici? Non so. Darsi. Aiuto! Una cosa è chiara però. Il tempo è lungo in queste condizioni e ci spinge a popolarlo di movimenti che a noi sembrano razionali. Ma è perché ci siamo abituati. Tu mi dirai che per impedire alla nostra ragione di colare a picco, d'accordo? Ma non sta già vagolando? Nella notte assoluta, del buio assoluto? Queste cose io mi... Hai capito il mio ragionamento? E si nasce tutti pazzi, qualcuno lo è. Aiuto! Mi darò del denaro! Quanto? 100! Ma basta! Non arriverei a tanto. Ma ti pare che basta? No, voglio dire, non arrivo a dire che io sono nato senza avere la testa a posto. 200! Noi aspettiamo, ci annoiamo, no, non mi contraddire, ci annoiamo a morte! Si presenta una diversione, che facciamo? La lasciamo marcire così, forza! Tra poco torneremo soli, nel cuore delle nostre solitudini. 200! Arriviamo! Qua! Vieni! Ma che cosa avete tutti quanti? Aiuto! Io me ne vado! No, aiutami! Questi mi uccidono! Sono! Arrivo! Aiuto! Io me ne vado! Aspetta, aiutami! E poi ce ne andremo insieme! Lo prometti? Te lo prometto! Non torneremo più! Mai! E mi porterai nella Riesia? Tutto dove vuoi! 300! Lei a 400! Ho sempre sognato di fare un giretto da quelle parti, lo sai? E lo farai il tuo giretto! Ti ho scorreggiato! È stato Pozzo! Sono io! Me ne vado! Aiutami prima! Io me ne vado! Riuscirò a fin dai conti ad alzarmi da solo prima o poi, no? Levati dai piedi. Resti qui? Sì, per il momento. Ma dai, quindi forza su, alza, ti prenderei freddo. Non ti occupare di me. Dai, dirvi forza, dai. Non fare l'ostinato, dai, forza. Sì, alzi, lettina. Aspetta! Aiuto! Siamo qui! Chi siete? Siamo uomini. Come si sta bene per te? No. Non ce la fai ad alzarti? Non so. Dai, prova. Più tardi, più tardi. Ma che è successo? Ma vai star zitto, carogna! Se proprio sarà se stesso quello là! Solo se potesse dormire. L'hai sentito? Vuole sapere cosa è successo? Lascialo perdere, non dormi. Che cosa è successo? Stavi dormendo? Credo di sì. Di nuovo quel porto di pozzo! Dimmi che la pianti, no? La vuoi piantare? Basta un po'! Ecco, che scappo, sta scappando! Che è accaduto? Pozzo? Non mi risponde più. Insieme? Pozzo! Pozzo! Ecco, si è mosso. Ah, sei sicuro che si chiami Pozzo? Signor Pozzo, torna qua, non ti faremo del male. Proviamo con degli altri nomi. Credo si sia seriamente ferito. Sarebbe divertente. Che cosa sarebbe divertente? Provare con degli altri nomi, uno dopo l'altro. No, farebbe passare il tempo, dobbiamo pur cadere prima o poi su quello fuori. Ti dico che si chiama Pozzo. A valle! Aiuto! Hai visto? Ne ho abbastanza di questa vita. Magari l'altro si chiama Carino. Carino! Aiuto! È tutta l'umanità! Guarda quella nuvoletta lassù. Dove? Lassù, allo Zenith. Ah, cos'ha di straordinario? Dovremmo incazzarci. Si potrebbe provare, no? Ci proviamo. Proviamoci! Ah, non è stato così tanto difficile. Volere è potere. Adesso... Aiuto! Se lo aiutassimo! Che bisogna fare? Aiuto! Vuoi alzarsi? Allora? Vuoi che lo aiutiamo ad alzarsi? Noi aiutiamo, ti aspettiamo. Bisogna che si riabitua la posizione del... Dai, forza! Eccoci qua. Come va? Chi siete? Non si ricorda? Sono cieco. Forse avete chiaro nell'avvenire. Da quando? Avevo un'ottima vista. Ma voi siete amici? Amici? Ti chiedo se siamo degli amici. Ma vuole dire amici suoi. Appunto. Lo avremmo aiutato? Non l'avremmo mai aiutato se non fossimo stati suoi amici. Non sarete mica dei briganti? Dei briganti? Abbiamo l'aria dei briganti noi. Sì, certo. No, per bacca, è vero. Beh, dice lui, però. Non lasciatemi. Ma neanche per solo. Che ora è? Vediamo. Le 7, le 8? Dipende dalle stagioni. È arrivata la sera. Sembra che stia alzando. No, impossibile. E se fosse l'aurora? Cretino, è l'ovest, di là. Tu che ne sai? È arrivata la sera, perché non mi rispondete? Il fatto è che non vorremmo dirle una cavolata. È arrivata, è giunta la sera, signore. Mio amico qui vorrebbe farci credere il contrario. Per un attimo mi sono lasciato influenzare, ma non per nulla ho attraversato questa lunga giornata, le assicuro che è giunta la fine del suo repertorio. Come si sente? Quanto tempo ancora dovremo tenerlo su? Ma lei ha detto che un tempo aveva un'ottima vista. Sì, era davvero molto buona. Sviluppare? Non vedi che sta cercando di ricordare la sua felicità? Memoria, preteritorum bonorum, deve essere penoso. Sì, molto buona. E tutta ad un tratto? Molto buona. Dicevo, tutta un bel giorno mi sono svegliato cieco, come il destino. A volte mi chiedo se non sto ancora dormendo. Ma quando? Non ricordo. Ma ieri soltanto... Non fatemi domande. I ciechi non hanno la nozione del tempo. E non vedono nemmeno le cose del tempo. Ah, avrei giurato il contrario. Io me ne vado. E dove siamo qui? Non lo so. Questo posto non è per caso la località chiamata The Stage? Non conosco. A cosa somiglia questo posto? non assomiglia a niente. Non si può descrivere, non c'è niente. C'è un albero. Allora non è stage, capirà che diversione. E dov'è il mio domestico? Da. Perché non mi risponde quando lo chiamo? Sembra dorma, forse è morto. Andate a vedere se è ferito. Non possiamo lasciare lei. Non c'è mica bisogno che ci andate tutte e due. Vai tu. Giusto, ci vada il suo amico. Puzza talmente. Che cosa aspetta? Cosa aspetti? Aspetto Godot. No. Cosa bisogna fare esattamente? Per prima cosa bisogna tirare la corda, badando bene naturalmente a non strangolarlo. Questo ingegnere deve far agire, altrimenti gli dia dei calci nel basso ventre o nel volto, per quanto possibile. E se si difende? No, non si difende mai. Volerò il tuo soccorso. Non perdermi mai di vista. Vai! Controlla prima che respiri, no? È inutile che tu sei morto. Respira. Solo allora! Cosa è successo? E mio amico si è fatto male, dai! Dai, allora è proprio lui! Non capisco. È proprio là! Ma come? E lei è pozzo, lei! Non si capisce che sono pozzo! Ci siamo visti ieri! Ieri? Non ricorda, ci siamo conosciuti ieri! Non ricordo di aver incontrato nessuno ieri. Ma domani non ricorderò di aver incontrato nessuno oggi. Sicché non rivolgetevi a me se volete delle informazioni. E poi basta con queste storie. In piedi! Ma lei lo stava portando al mercato di San Salvatore. Lui ha ballato. Ha pensato, lei ha parlato con noi, ci vedeva bene. Se questo le fa piacere. Adesso basta. In piedi! Ecco, si sta alzando. Meno male. Domandate di questo passo. Non me ne occupo. Come è cambiato lei? Frusta! Corda! Cosa c'è nella valigia? Sabbia! Avanti! No, partite! Io parto! Quando cadete da un'altra parte, come fate se non vi aiuta qualcuno? Aspettiamo di poterci rialzare da soli e poi ripartiamo. Prima di partire, gli dica di cantare. A chi? All'altro. Cantare, pensare, recitare. Ma sei muto. Muto? Precisamente, neanche un gemito. Ma muto da quando? Ma la volete finire con questa vostra storia di tempo? È grottesco! Quando? Un giorno! Non mi basta! Un giorno, come tutti gli altri, lui è diventato muto. Un giorno io sono diventato cieco. Un giorno diventeremo sordi. Un giorno siamo nati, un giorno moriremo. Lo stesso giorno, lo stesso istante. Partoriscono a cavallo di una tomba. Il giorno splende un istante. E poi è di nuovo la notte. Avanti! No, stavo dormendo. Ma perché? Perché non mi lasci mai dormire? Mi sentivo solo. Sognavo di essere felice. Beh, intanto il tempo è passato. Sognavo. Sta zitto. Mi domando se è veramente cieco. Chi? Un cieco direbbe che non ha più la nozione del tempo. Chi? Buzzo! È cieco. Così ci ha detto. E allora? Mi è sembrato che ci vedessi. E te lo sei sognato. Andiamo via? No, non si può, è vero. Sei sicuro che non sia lui? Chi? Godot. Ma chi? Pozzo. Ma no. Ma no, ma no. Potrei anche alzarmi. Non so più che cosa pensare. Hai i... No, i piedi. Forse è dormito mentre gli altri soffrivano. Sto forse dormendo in questo momento. Domani, quando mi sembrerà di svegliarmi, cosa dirò di questa giornata? Col mio amico Estragone in questo luogo fino al cadere della notte ho aspettato Godot. Che Pozzo è passato col suo facchino, ci ha parlati, senza dubbio. Ma tutto ciò quanto ci sarà di vero? Lui non saprà niente. Parlerà dei calci che si è preso, io gli darò una carota. Il cavallo di una tomba è di una nascita difficile. Dal fondo della fossa, pensosamente, il becchino maneggia i suoi attrezzi. Abbiamo il tempo di invecchiare. L'aria risuona delle nostre grida. Ma l'abitudine è una grande sordina. Anche per me c'è un altro che mi sta a guardare. Pensando tu dormi, non sa niente. Lasciamo dormire. Non posso più andare avanti. Cosa ho detto? Signore! Ricominciamo. Mi riconosci? No, signore. Sei tu che sei venuto ieri? No, signore. È la prima volta che vieni? Sì, signore. Ma non è il signor Godot? Sì, signore. Non verrà questa sera? No, signore. Ma verrà domani? Sì, signore. Sicuramente? Sì, signore. Ha incontrato qualcuno? No, signore. Altri due uomini? Non ha incontrato nessuno, signore. Cosa fa il signor Godot? Hai sentito? Sì, signore. Allora? Non fa niente, signore. Come sta il tuo fratello? È malato, signore. Forse è lui che è venuto ieri? Non lo so, signore. Il signor Godot ha la barba? Sì, signore. È bionda o nera? Mi pare che sia bianca, signore. Mi si ricordi? Ha detto? Sì. E devo dire al signor Godot, signore? Digli che mi hai visto e che... Digli che mi hai visto. Sei sicuro di avermi visto, no? Non è che domani torni e dici di non avermi visto, vero? Che cos'è? Niente. Io me ne vado. Anch'io. Mi ha detto tanto che dormivo. Non lo so. Dove andiamo? Non lontano. No, andiamocene. Non si può. Perché? Dobbiamo tornare domani. Perché? Aspettare con tu. Non c'è. Vabbè. Non è venuto? No. E ormai è troppo tardi. Sì. È notte. E se lo lasciassimo perdere? Se lo lasciassimo perdere. Morirebbe. Solo l'albero vive. Che cos'è? È l'albero. Di che genere? Non lo so. Sa che c'è piacere. Andiamo a vedere. Con cosa? Non ce l'hai un pezzo di corda? No. Allora non si può. Andiamo via? Aspetta, ce l'hai la cintola. Ma è troppo corta. Mi tirerebbe le dita. Chi tirerà le mie? Vero. Fammela vedere qua allora. Sarà solida abbastanza? Aspetta, adesso via. Non vale niente. dicevi che dobbiamo tornare domani? Sì. Allora ci procureremo una buona corda. Giusto. Vivi? Sì. Io non posso più andare avanti così. Sono cose che si dicono. Se provassimo a lasciarci, forse... forse le cose migliorerebbero. Ci impiccheremo domani. A meno che non venga Cotù. E se viene? Saremo salvati. Allora andiamo? I pantaloni. Come? I pantaloni. La mia pantaloni. Tirati sui pantaloni. Ah. Allora andiamo? Andiamo.